9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari radioascoltatori, buon mercoledì 12 di gennaio e una puntata che dedicheremo a capire la vigilia del voto a Mirafiori, sempre che appunto sia confermato il voto, perché ieri poi si sono alimentate polemiche anche intorno al fatto che la commissione elettorale lo confermi per domani e dopodomani oppure lo possa rinviare come chiedevano alcune organizzazioni. Ma prima di questo vi invito a riflettere sul fatto che è uscita la graduatoria del 2011, l'indice delle libertà economiche, quello elaborato da Freedom House della Heritage Foundation. Certamente sono le graduatorie comparate in cui spesso i governi si arrabbiano, dicono che i criteri con cui sono elaborate sono assai discutibili, che finire in queste graduatorie dietro paesi in cui nessuno di noi andrebbe a vivere è molto molto molto discutibile, però poi alla fine sono le cose che contano nel mondo globalizzato, quelle che danno l'idea di chi cresce di più perché ha una migliore capacità di attrattiva dei capitali, una maggiore redditività di ogni fattore della produzione, a cominciare dal quello umano, a finire nel capitale fisico, a quello finanziario, a quello immateriale degli intangibili. Ebbene, che cosa ci dice la graduatoria 2011, l'Index of Economic Freedom? Che primo paese è Hong Kong, secondo Singapore, terzo l'Australia, quattro la Nuova Zelanda, l'Asia che corre. Questi quattro paesi crescono in media del 6,8% attualmente nel GDP. Quinta è la Svizzera, il primo paese europeo in graduatoria è la Svizzera, poi viene il Canada, l'Irlanda, la Danimarca, gli Stati Uniti in nono posto, e la peggiore performance per gli Stati Uniti da 10 anni a questa parte, casca di parecchi punti al nono posto, poi il Bahrain, il Cile, che dell'America Latina è il paese giudicato col sistema giuridico di libertà economica di mercato migliore. E poi scendendo troviamo un po' di paesi come Lussemburgo, Estonia, ecco il Regno Unito al 16° posto, è caduto pure lui perché naturalmente lo Stato si è molto allargato, poi Finlandia, Cipro, Macao, Giappone, ecco l'Austria, dei paesi di area continentale, quello messo meglio al 21° posto, poi la Svezia al 22°, al 23° la Germania. Vi risparmio scendendo Taiwan, Santa Lucia, Qatar, Repubblica Ceca, eccetera, eccetera. Diciamo che verso oltre il 30° posto iniziamo a trovare anche poi paesi come l'Armenia, la Repubblica Slovacchia, la Giordania al 38° posto, al 39°, al 39°, il Salvador, il Perù al 41°. Naturalmente l'Italia non c'è ancora, io per questo sto compitando la graduatoria per farvi riflettere. Poi al 43° c'è Israele, l'Islanda, la Colombia, Bahamas, gli Emirati Arabi Uniti, e siamo arrivati al 48° dove c'è il Messico, al 49° il Costa Rica, eccetera eccetera, l'Ungheria 51°, scendendo Malaysia, Arabia Saudita, Macedonia, Lettonia, Malta, Giamaica, Panama, Bulgaria, Kuwait, Thailandia, Romania, Francia. La Francia sta al 64° posto, non sta messa molto bene, al 64°, al 67° la Turchia, che sta migliorando molto, al 68° la Polonia, anche lei sta migliorando molto, scendendo poi Belize, Namibia, Sudafrica, Ruanda, siamo al 75° posto nel frattempo. Poi c'è il Montenegro, il Paraguay, il Kazakistan, Guatemala, Uganda, Madagascar, siamo arrivati all'80° posto, la Croazia, la Repubblica Kirghisa, il Kirghizistan, il Samoa, Burkina Faso all'85° posto, Burkina Faso all'86° Fiji, ed ecco finalmente all'87° posto la Repubblica Italiana su 179, siamo all'87° posto. Perché vi leggo questa graduatoria? Perché temo che abbia a che fare con i temi posti dall'azienda Fiat, dalla rottura 2 anni fa con Confindustria, con la maggioranza dei sindacati per nuovi assetti contrattuali non firmata dalla CGIL, dalle intese sulle deroghe contrattuali sempre con gli stessi sindacati e Federmeccanica, e poi dalla decisione di fare intese aziendali come sono quelle in Fiat con le Newco, che nascono fuori da Federmeccanica perché toccano un punto, quello della rappresentanza, chi firma presenta la lista, chi non firma non può contestarle, che non era nel contratto, quindi non si può fare neanche con le deroghe al contratto di Federmeccanica, bisogna farle con le Newco fuori, con l'accordo del 93 che appunto stabiliva questo principio, e che naturalmente anche quello la CGIL non l'ha firmato e che oggi invoca invece come se fosse la Costituzione. Ecco, chiederemo direttamente ai nostri ospiti come si avvicinano al voto, intanto ricordiamoci anche che cosa aveva detto Sergio Marchionne. e abbiamo annunciato che faremo circa 2 miliardi, più di 2 miliardi di utile operativo nel 2010. Nemmeno un euro di quei 2 miliardi è fatto in Italia. Siamo ancora in perdita. Cioè, lei sta dicendo che volendo Fiat potrebbe fare a meno dell'Italia? Io le sto dicendo che se dovessi togliere quella parte italiana dei risultati, la Fiat farebbe di più. Avrebbe fatto di più l'anno scorso, lo sta facendo adesso. Uno non può gestire delle operazioni in perdita per sempre. Ecco, parole secche, parole chiare. Avete letto, o comunque leggerete sui giornali di oggi, i toni con cui la segretaria della CGIL, Susanna Camusso, ha detto a Marchionne: tu però non puoi darci un insulto al giorno. Susanna Camusso, come la linea della maggioranza della CGIL, che in fiume minoranza ha preso 29 voti su 102 al comitato centrale guidata da Durante rispetto a Landini e Cremaschi, aveva fatto intendere che era meglio se la Fiume dava un voto tecnico all'intesa per rimanere comunque nell'azienda, comunque andasse all'esito del voto. Landini è stato durissimo, ha detto non se ne parla neanche, si è rivolto direttamente scavalcando la Confederazione al PD, creando un problema dicendo a Bersani: dovete dirci prima del voto se il PD sta con noi o contro di noi. E il PD su questo ha delle difficoltà perché ha diverse anime, c'è l'anima riformista che non ci si ritrova in questo no, e ieri Landini ha ulteriormente indurito la polemica dicendo: bisogna a qualunque costo far saltare l'accordo con Mirafiori. Ci sono, diciamo, 12 anni, 15 anni di posizione Fiume rispetto alla stessa CGIL e alla sinistra, alla redderazione su Mirafiori, ancora più che a Pomigliano. Mirafiori è ovvio un luogo simbolico, emblematico, e soprattutto su Mirafiori, su un no su Mirafiori, potrebbe davvero configurarsi quello che Marchionne ha sempre fatto capire, cioè addio alla manifattura italiana, perché Fiat è impegnata, salita al 25% di Chrysler, alla restituzione dei 9 miliardi di aiuti avuti da Obama, per cui è necessario prima fare un IPO, un collocamento sul mercato di Fiat Chrysler per ottenere una ventina di miliardi di dollari, ridarne 9 a quel punto al governo americano, avere munizioni finanziarie per crescere non solo la quota Fiat al 51% dell'aggregato, ma per finanziare la crescita del gruppo. E in questo disegno, dove le priorità sono queste tappe, in effetti la difesa della manifattura italiana, per quanto ai nostri occhi possa apparire imprescindibile, non è affatto da considerare imprescindibile con gli occhi di chi ha la crescita a livello statunitense e poi mondiale e i tempi strettissimi per le operazioni da realizzare finanziarie per queste condizioni. Iniziamo con alcuni ospiti a dirci come la pensano alla vigilia del voto. Abbiamo con noi Roberto Di Maolo, che è il segretario generale della FISMIC, una delle organizzazioni che hanno detto sì e sono impegnate nella campagna. Buongiorno Di Maolo. E abbiamo Rinaldo Gianola, che è vice direttore dell'Unità, autore di un libero reportage, Diario Operaio, la condizione del lavoro nella crisi italiana. Buongiorno Gianola. Buongiorno a voi. Di Maolo, ci dice intanto se da quello che sa poi alla fine il voto è confermato e comunque alla vigilia come la FISMIC pensa che andrà, se è soddisfatta dell'equilibrio e del rispetto con cui sta avvenendo nelle ultime ore il confronto tra i delegati rappresentanti e i lavoratori a Mirafiori, che come pensa che andrà? Allora, buongiorno agli ascoltatori, vorrei iniziare con una battuta. Se perdiamo un posto nella classifica UEFA di calcio, se ne parla per mesi. Siamo al 90° posto nella competitività industriale e ovviamente non c'è scritto su nessun giornale oggi. Ho fatto un'attenta lettura dei giornali, non mi risulta che ce ne sia traccia da nessuna parte. Infatti io le leggevo dal Wall Street Journal. Infatti io non avevo dubbi. Allora, innanzitutto il referendum è assolutamente confermato già da ieri, ma non poteva essere che così, non possiamo essere contraddittori anche nelle cose più elementari e non lo saremo. Stiamo facendo un confronto franco e sereno con tutti i lavoratori per cercare di spiegare i reali contenuti dell'accordo e cercare di togliere le bugie un po' eccessive che la Fiume ha messo di anticostituzionalità, che vengono toccati i diritti indisponibili. In realtà, come al solito, questo non è vero. Se fosse vero, mi chiedo perché La FIOM non ha presentato finora, e l'accordo di Pomigliano, che è uguale a quello di Mirafiori, è datato 15 giugno 2010, al Tribunale di Nola non mi risulta ci sia deposta nessuna richiesta di incostituzionalità o di messa in discussione dell'accordo di Pomigliano. Quindi è la migliore dimostrazione che le chiacchiere che fa Landini sono assolutamente chiacchiere, sono cose assolutamente non vere, altrimenti farebbero già ricorsi alla magistratura. Dobbiamo, come si dice, proseguire una campagna di sensibilizzazione in queste ore, lo stiamo facendo, parlando peer to peer con i lavoratori, persona per persona, stiamo cercando di spiegare che quell'accordo non toglie nessun diritto, anzi ne migliora la condizione, soprattutto in termini di retribuzione, ma anche in termini di condizioni di lavoro, e che l'unica cosa che chiede Marchionne è di lavorare come si lavora in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, e non come in Cina e in India. Il tema della rappresentanza, che ha infuocato, ed è questa in realtà, da quello che si è capito, la differenza aggiuntiva rispetto al dibattito Pomigliano prima maniera, per intenderci, il tema della rappresentanza, cioè l'impegno solo per chi sottoscrive le intese poi a presentare le liste e avere i delegati, questa volta però designati dal sindacato e non eletti con le liste. In che cosa concretamente cambia per chi è presente tra i lavoratori nello stabilimento? Ma guardi, dal 70, anno in cui è stato varato lo statuto dei lavoratori, sono state varate le RSA. Fino al 93 non è vero che non sono stati votati i lavoratori, i lavoratori non hanno votato e non hanno scelto le rappresentanze, hanno sempre votato con scadenza trio quadriennale, hanno votato le loro RSA e regolarmente sono stati, cioè fino al 93 non è che mancava la democrazia in Italia, credo che di democrazia in fabbrica ce ne sia stata, come si dice, abbastanza, non è mai troppa. Però ce ne sia stata abbastanza pure dal 70 al 93, quindi ritornare allo statuto dei lavoratori e rivotare secondo le regole lo statuto dei lavoratori non penso sia un dramma. Gianola, oggi anche gli organi di informazione, che non sono ipotizzabili di essere, per così dire, ostili, lontani o pregiudizialmente, insomma non sto parlando già della destra, quelli che ogni occasione è buona, ma se uno apre Repubblica oggi nelle pagine che dedica al prevoto di Torino, da una parte dà giustamente atto dello scontro Camusso-Marchionne, ipotizza la carta segreta del Lingotto, pronti a nuove alleanze, lasciare l'Italia non è un tabù, però dall'altra dà altrettanto spazio e attenzione all'appello che viene dalla parte maggioritaria della CGIL in confronto della FIOM: non restate fuori dalla fabbrica. È sbagliato ricorrere solo ai tribunali, come Landini e il vertice della FIOM ha lasciato intendere di volersi riservare, anche in caso di vittoria del sì tra i lavoratori, perché nella convinzione in definitiva che questo accordo violi i diritti indisponibili al voto dei lavoratori di Mirafiori, e Landini ha fatto intendere: guardate che questa è una strategia di lungo periodo, non possiamo rassegnarci neanche a una sconfitta. Allora, questo tema, il bilancio di lungo periodo, per così dire, di una strategia che in questa categoria, metalmeccanici, è diversa da qualunque altra categoria, perché nelle altre categorie i contratti, anche dopo l'accordo interconfederale, le federazioni di settore della CGIL li hanno firmati tutti, tranne come al solito, come avviene da tre contratti nazionali per i meccanici con la FIOM. Ecco, se uno dovesse inquadrarla, prima di entrare nel merito dell'intesa delle Mirafiori, poi ci entriamo, Rinaldo, ma dovesse inquadrarla in questa prospettiva di lungo periodo di quello che la FIOM ha rappresentato all'interno della CGIL e all'interno della sinistra, il voto dei Mirafiori è solo un passaggio di questa storia lunga, secondo te, o potrebbe essere la svolta a seconda di se vince il sì o se vince il no? No, secondo me non ci sarà nessuna svolta clamorosa, nel senso che la cosa che nessuno ha notato, ma sul referendum di Mirafiori le posizioni della CGIL e della FIOM sono molto più vicine, quasi univoche direi, che non quelle della CGIL e della FIOM sul referendum di Pomigliano. Cioè a Pomigliano c'era solo la FIOM che diceva no e la CGIL aveva invitato a votare sì. Sì, è così. Oggi la CGIL dice di votare no, sostiene il no. Mi rendo conto invece, secondo le tue osservazioni, che naturalmente c'è una politica, una strategia, una linea di sviluppo della linea sindacale della FIOM che porta a uno scontro, a una tensione anche con la CGIL ed è maturata nel corso di questi anni. Oggi il caso Fiat però è un caso particolare, secondo me, è un caso particolare perché chiude una stagione, ed è anche una stagione in cui la FIOM non è vero che non ha firmato contratti, perché ne ha fatti decine di contratti, e apre un'altra stagione, ed è quella che ci porta in un territorio, secondo me, diciamo più sconosciuto, più ambiguo, più preoccupante. Io voglio solo fare un esempio, no? Perché poi noi dovremo confrontarci con i numeri e con i fatti. Poniamo il caso che domani, tra giovedì e venerdì, ci sia un successo del sì a Mirafiori, e quindi Mirafiori diventa la seconda fabbrica della Fiat che accetta un cambiamento organizzativo, produttivo, dell'organizzazione del lavoro, e si va a, diciamo, al nuovo modello di Fabbrica Italia. Questo modello è riconducibile e limitato esclusivamente alle fabbriche Fiat, o deve in qualche modo essere copiato, indotto, spinto, imposto anche per esempio alle fabbriche dell'indotto di Torino? Cioè, la Fiat può sopravvivere nella nuova condizione organizzativa e produttiva con fabbriche dell'indotto? A Torino, faccio un esempio, ce ne sono 1150 e danno lavoro a circa 70.000 persone, che viaggiano invece su altri livelli, altri ritmi, altre condizioni contrattuali. Beh, qui noi dobbiamo, è un problema grosso, sai, perché nelle fabbriche dell'indotto di Torino, se noi raccogliamo i voti, diciamo, sindacali oggi, il 54% sono voti della FIOM. In circa il 50% di queste fabbriche la FIOM non è il sindacato principale, è l'unico sindacato presente. Vogliamo fare conti con l'esclusione totale del sindacato da queste aziende? Io ho l'impressione che andiamo incontro a un disastro, ma non per la FIOM, che comunque avrà fatto le sue scelte, comunque in questa radicalizzazione in questo momento ci sta pure guadagnando mediaticamente e probabilmente anche con il numero di iscritti. Andiamo a sbattere il muso tutti quanti noi, e i primi a pagarne saranno le imprese, le piccole e medie imprese, che non hanno ovviamente la forza, il potere mediatico e direi anche un po' ricattatorio di Marchionne, e quindi avranno queste condizioni. Però posso farti un'obiezione, Rinaldo? Ho sentito degli imprenditori importanti e sono molto preoccupati da questa rottura. Oh no, ma questo si io va, ti do... Si va in una situazione che è un territorio di nessuno in questo momento. Ti do atto, perché come si è visto all'interno di Federmeccanica le obiezioni c'erano, esattamente per quello che dici tu. Perché voglio timore c'è, paura, ma aspetta, scusa. Ti faccio solo un'obiezione. Sì. Tu mi dici, numeri alla mano, la posizione della FIOM che è in grado di bloccare tutti. Quando c'è stata la sconfitta storica nel 55 alla Fiat, storica, perché lì si disse la Fiat non può, alla fine la Fiat si organizzò. E come sai, ci sono voluti più di 10 anni per uscirne fuori. Anche lì la FIOM disse non ci potete mettere sotto. Altri tempi, altri metodi, perché qui insomma non c'è il sindacato giallo con cui Valletta lo fece allora. Si può riprendere allora la sconfitta del 1980, che è molto più significativa. Ok, ma allora, anche la sconfitta dell'80, vedi che alla fine c'è una ricorrenza, per così dire, nella storia, di dire siamo arrivati a un punto di forza in cui dovete fare come diciamo noi, che naturalmente è una maniera di fare che poi prescinde che i contratti aziendali ci sono in tutti i paesi d'Europa continentale, non solo anglosassone, prescinde tutto il discorso di merito, ma al di là di questo, siccome giusto, giustamente secondo me tu l'hai messa così, perché io credo che questo sia l'argomento vero che sta nella testa dei leader della FIOM, per come li conosco da tanti anni a Torino, per come conosco uno come Giorgio Airaudo, che non ha la passione di Cremaschi estrema. Airaudo è uno concreto con cui io mi metterei a trattare, anche se si trattasse di casa mia o di casa sua, ecco, te lo dico con grande sincerità perché lo conosco. Allora, siccome secondo me questo argomento con cui hai cominciato è veramente l'argomento che porta la FIOM a dire uè ragazzi, qua non possono passare, perché noi abbiamo in mano il controllo stramaggioritario a Torino come nelle aziende meccaniche italiane. Allora, il punto è che se si prescinde dal merito e si arriva a una rottura, la storia ci dice che la rottura può avvenire e che poi per la sinistra e la FIOM sono anni e anni e anni ancora più duri per rimontare. Mi sbaglio, Rinaldo? No, su questo hai perfettamente ragione, ma io voglio segnalare una cosa che secondo me è l'elemento che ancora politicamente, direi quasi così filosoficamente, cioè che attiene ai valori profondi di questo paese, del mondo del lavoro, non è stato ancora colto e descritto e enfatizzato in modo evidente dai giornali. Io mi sono sfruttato, ma cioè qui c'è un contrasto troppo forte, troppo evidente, troppo ingiusto, se mi passi questa parola, tra le posizioni e i poteri che sono in campo. Cioè Noi oggi, io ieri stavo davanti a Mirafiori, non si può scaricare su 5.400 lavoratori sulla loro scelta sì o no, perché tutti naturalmente poi devono pensare alla loro famiglia, al loro salario, certo, ai loro figli, al loro mutuo. Non si può scaricare su di loro con un referendum sì o no la politica delle relazioni industriali in questo paese. Ma io infatti su di loro, vedi, e allora non bisogna politicizzarla troppo, perché io nel darti ragione, di quelli votano per le regole dello stabilimento. Infatti ho capito, è così. Sì, ma queste regole dello stabilimento tu lo sai benissimo, così come Pomigliano doveva essere un caso eccezionale e poi non è stato un caso eccezionale, diventeranno delle regole diffuse per tutti, perché la Fiat non è una piccola media impresa dell'indotto. E ahimè, sì, e 10-100.000 Pomigliano è più o meno quello... Mettendo in ginocchio la Confindustria. Allora la Marcegaglia non sa più che pesci pigliare. Ma no, adesso guarda, io non rispondo per la Marcegaglia. Io dico che la mia opinione è questa: se il sindacato, che altrove, come sai, è unitario, come in Germania le storie sono diverse e così via, accetta l'idea della 10-100.000 Pomigliano e dal basso si ridefinisce per discutere i piani industriali, la produttività, e si ficca un po' più denaro in tasca, che è la componente che da 15 anni è più bastonata nella crescita del nostro paese, nella distribuzione dei redditi, e su questo siamo tutti d'accordo, tranne il fatto che poi quando si tratta di portare un po' di migliaia di euro lordi in più ci si divide. Dall'altra parte in Germania tra il 2002 e il 2005 le intese erano lavorare di più a uguale paga. In America le intese sono per andare avanti i neoassunti e quelli degli ultimi 3 anni quasi metà della retribuzione rispetto a quelli seniores. Allora qui nessuno pensa a questo. Io penso che un sindacato che accettasse questa impostazione sarebbe un sindacato che non pregiudicherebbe affatto il fatto di contare molto di più, però dovrebbe guardare su come va l'Europa e il mondo. Poi ripeto, io non rispondo per Confindustria, la mia linea è 10-100.000 Pomigliano, l'ho sempre detta sapendo che in Federmeccanica all'inizio c'era un problema serio, perché in Federmeccanica molti non sopportavano il fatto che Fiat aveva avuto gli aiuti, adesso si metteva alla testa dell'avanguardia facendo pagare magari agli altri le tra virgolette vendette della Fiomma, per capirci. Io penso che non ci saranno, vediamo come andrà il voto. Adesso pubblicità e poi riprendiamo con un po' di telefonate. Eccoci tornati in studio, sentiamo qualche telefonata. Arturo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno signor Giannino. Buongiorno a lei. Ascolti, io volevo chiederle una cosa, perché io non ho capito in fin dei conti cos'è che vogliono i sindacati e gli operai della Fiat, in fin dei conti quali sono ste sto contratto che dice che è così, diciamo, penalizzante per gli operai. Cavolo, che Marchione che venga a far su la Fiat in Val Brembana, che ci sono gli operai qua che vogliono lavorare, cavolo. Lei pensa che ce ne sono anche parecchi di quelli della manifattura colpiti da crisi di aziende chiuse che pagherebbero altro che per avere gli aumenti da 3.700 euro. Grazie ad Arturo da Bergamo. Sentiamo Andrea dalla provincia di Livorno. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Ma io volevo dire, la mia parte è che sono d'accordo con il discorso di Marchionne, ben vengano, soprattutto per dare un'impronta nuova. Per il discorso della competitività, secondo me, è anche frutto del sistema burocratico amministrativo italiano che non incentiva, anzi blocca, frena e tarpa le ali alla volontà imprenditoriale e anche industriale. Perché qui bisogna lavorare, io sono un direttore di un'azienda agricola, lavorare, pagare le tasse per mantenere chi ci mette bastoni tra le ruote. È una situazione, dal mio punto di vista, purtroppo irreversibile, nella quale non vedo una via d'uscita. Guardi Andrea, per essere chiari, in quella graduatoria che ho letto all'inizio, questo giorno di oggi, con questa Italia che veleggia in posizioni bassissime verso il 90° posto, per essere chiari, come ovvio, non pesano solo le regole del mercato del lavoro, che ne sono solo una componente, naturalmente ci sono anche il peso delle tasse, dei contributi, e noi siamo invece da record mondiale su questo, per quello che si prende lo Stato, conta l'efficienza degli incentivi e disincentivi amministrativi, cioè come effettivamente distorce o induce comportamenti virtuosi a best practice l'organizzazione pubblica nella società, e lì siamo molto indietro. Contano l'efficienza del sistema giudiziario per l'efficacia dell'ottemperanza dei contratti, che è una delle componenti fondamentali, cui guarda il capitale internazionale per allocare gli investimenti diretti esteri. Contano tutte queste cose, come ha detto lei. Il problema è che quando poi si è così in basso nella graduatoria bisognerebbe lavorare su ciascuno di questi campi, e uno di questi è appunto il mercato del lavoro, uno di questi è non le regole generali dei tipi di contratti, ma come ci si mette d'accordo tra sindacati e imprese nelle aziende. Noi abbiamo un quadro di grandi paesi europei dove ormai il salario variabile arriva fino al 40% della componente di cosa ogni mese portano in busta paga a casa i lavoratori. Da noi è meno del 4%, per questa contrattazione ferma a questa idea che solo nel nazionale si fa sia la parte giuridica sia la parte salariale, si fissano i limiti molto stretti della parte integrativa aziendale. Da 2 anni a questa parte, di fronte a più di 10 anni di attesa della CGIL, del tavolo delle relazioni industriali, vane, perché la CGIL aveva capito con Montezemolo che bastava star lontano dal tavolo e non si toccava più il tema, si chiama potere di veto al paese mio. Dopo tutta questa attesa, 2 anni e mezzo fa, Confindustria e i sindacati, CISL, UIL e gli altri, hanno detto: no ragazzi, qua si va avanti a maggioranza. Di qui nasce questa idea del 51%, che viene vista dalla CGIL e dalla FIOM come la lesione di una specie di patto non scritto. Il patto non scritto era: solo tutti d'accordo si cambiano le regole. Tutti d'accordo significa che chi va più lento è lui a dettare il passo agli altri. Rispetto a un mondo che corre, io non penso che sia ideologia pensare che a quel punto si torna a decidere la maggioranza e si torna a votare tra i lavoratori. A quel punto non si può dire: ah beh, ma i lavoratori di Mirafiori non possono decidere loro per tutti. O meglio, si può sostenere, questo sostiene la FIOM. Abbiamo sentito Rinaldo Gianola che appena, anche lui ci ha detto: ma come si fa a pensare che i 5.000 sotto una pressione così forte di perdere lavoro, lo stabilimento, possano essere loro a decidere temi di questa importanza? Però è dal basso che dovunque si fa. Questa è la storia della produttività della Germania, questa è la storia in Francia. Il settore pubblico è ipersindacalizzato, quello privato è iposindacalizzato rispetto a noi. Comunque, questa è la mia personale opinione. Sentiamo ancora altre telefonate. Abbiamo Marco che ci chiama da Modena. Sì, buongiorno Giannino. Dica. Io sono a favore del referendum, ovviamente per il sì, del referendum della Fiat, e sono contro tutte quelle persone, sindacati CGIL e giornalisti, che sparano contro Marchionne, tanto da definirlo anche nazista, in quanto in Italia ci sono migliaia di lavoratori che già hanno questi divieti, la mancanza dei primi 3 giorni della malattia, dell'orario di pausa, della manifestazione. Tutte quelle persone che lavorano in cooperativa, questi diritti non li hanno da anni e nessuno li considera protetti come dipendenti della Fiat. Quindi sono perfettamente a favore. Io aggiungo il fatto che in altri settori del mercato del lavoro, per esempio nel trasporto locale o per esempio nella scuola, il principio che viene ripristinato nelle fabbriche del 93, e cioè quello: chi non firma non presenta liste, si torna alla rappresentanza aziendale e non alla RSU, questo principio la CGIL l'ha accettato per diminuire il peso dei COBAS nel trasporto locale e per diminuire il peso della Gilda al tavolo della scuola. La CGIL altrove, nel settore pubblico, dove c'era chi faceva concorrenza dal basso, ancora più antagonista per dirla fuori dai denti, ha accettato il principio che chi non firma non c'è rappresentanti. E quindi questo è una questione sulla quale mi sono sempre interrogato in questa settimana, perché non l'ho visto poi nel dibattito nazionale sui giornali citato questo esempio. Non so se i colleghi si fossero distratti oppure se sbaglio io. Non credo di sbagliare, perché sono andato a controllare. Allora, se è un principio di diritto costituzionale così indefettibile, com'è che nel trasporto locale e nella scuola si può accettare da parte della stessa confederazione e invece articolazioni di settore come la FIOM della stessa confederazione qui lo considerano una lesione gravissima? Ma comunque, sentiamo ora la testimonianza di un nuovo ospite, poi torniamo per un secondo giro tra Di Mauro e Gianola. Un terzo ospite che si è aggiunto, che ci porta un'esperienza particolare, molto importante, perché si chiama Franco Garippo, quindi in realtà è un italiano, ma da molti anni è sindacalista della EG Metall, che è il grande sindacato unitario metalmeccanico tedesco, quello quindi che tratta Volkswagen per intenderci. E Franco Garippo è appunto da molti anni membro del consiglio di fabbrica dello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg. E quindi a Garippo chiedo, da questo punto di vista, come funziona da voi? Come mai voi siete innanzitutto un sindacato unitario, e di spiegarci un pochino questi contratti di solidarietà, questi contratti aziendali che in questi anni hanno dato la forza al sistema tedesco? Io ricordo che nei 5 anni pre-crisi, grazie ai grandi contratti di solidarietà per la produttività, perché non c'era ancora la crisi, in grandi gruppi come Volkswagen, come Siemens, come Bosch, la Germania ha fatto più 17 punti di produttività nel settore manifatturiero. La media dell'Unione Europea in quegli anni era 8%, la media italiana è stata praticamente 0,1%, e in quegli stessi anni, grazie al fatto che per difendere la manifattura in Germania e non farla delocalizzare a est, dove i costi erano più bassi e la capacità di lavoro era del tutto paragonabile, furono appunto i dipendenti del sindacato tedesco ad accettare una rimodulazione per il quale si poteva anche lavorare di più a parità di paga per dare i margini utili alle imprese, ma difendendo gli stabilimenti lì. E su questo che poi si è tornati a costi del lavoro in aumento, ma in realtà molto, molto fermi, perché in questi anni l'aumento del costo del lavoro e della retribuzione diretta è stata abbastanza bassa, ma insomma l'atteggiamento è stato di un confronto diretto dal basso con le aziende, per dire, per difendere la Opel, quella che si sono rifiutati di dare a Fiat, se ricordate. Da 3 anni le retribuzioni sono ferme e le ferie pagate alla Opel, ai 23.000 della Opel, sono diminuite di più del 50%. Ecco, la Germania è fatta così, non so se si sarebbe considerata una specie di violazione dei diritti. Comunque, Franco Garippo, dal punto di vista della sua esperienza, questa vicenda di Mirafiori, che cosa le sembra e quanto è diverso da voi? Buongiorno, voi prima. Sono in ascolto? Sì, prego, può parlare. Pronto? Vorrei rispondere alla vostra prima domanda, il fatto dei sindacati, della situazione sindacale, senza dare magari un giudizio sulla situazione da voi, però in confronto da noi, insomma, noi abbiamo qui alla Volkswagen IG Metall, abbiamo gli iscritti del 96% al nostro sindacato, una situazione di due sindacati dove si divide il 50-50%, non riusciamo nemmeno a immaginarla, perché in fin dei conti, come operai, quando si vuole chiedere qualche cosa, l'unione fa la forza. Partiamo da quel punto di vista, perché questo è il nostro modo di agire. Per questo è molto difficile capire la situazione in Italia da parte nostra, come si vuole far fronte a un datore di lavoro quando ci si divide le forze nell'ambito degli operai. Perché naturalmente, essendo tutti uniti, è molto difficile. Naturalmente, ecco, quando si è tutti uniti, non è che contano le posizioni politiche dei diversi partiti nazionali, conta quello che bisogna chiedere in azienda rispetto a come lavora l'azienda. Perfettamente, ma perché sono gli interessi degli operai che dobbiamo salvaguardare, noi gli interessi dei partiti. A noi i partiti non interessano nell'ambito del sindacato assolutamente. Abbiamo le nostre richieste, le nostre rivendicazioni nell'ambito del sindacato, che è un sindacato unitario dove siamo tutti gli iscritti dell'azienda. Quanto riguarda la Volkswagen, definiscono la loro richiesta, e come adesso per esempio stiamo chiedendo il 4% di aumento, ci troviamo in trattative, a partire dal 1 di febbraio scadono i nostri contratti, abbiamo disdetto i nostri contratti e abbiamo fatto quest'anno una richiesta di un aumento delle paghe del 4%. Questo vale per tutti gli operai dell'azienda. Se vogliamo litigarci, dobbiamo litigarci prima nell'ambito della commissione, di dire il 6% di richiesta sindacale. Ora dobbiamo vedere quello che riusciamo a ottenere. Però non è possibile che ci litighiamo quando andiamo davanti al datore di lavoro a chiedere le nostre rivendicazioni. Posso chiederle una cosa? Quanto ricorrete allo sciopero e quali sono le regole per scioperare da voi? Allora, io sono 35 anni che lavoro nella fabbrica dove c'è la direzione della Volkswagen qui a Wolfsburg, di cui sono 27 anni nel consiglio di fabbrica e 35 anni nella commissione tariffale. Non abbiamo mai indetto uno sciopero legale. Aspetti un secondo, voglio ripetere quello che ha detto ai nostri ascoltatori. In 27 anni eccetera lei ci ha detto non abbiamo mai indetto uno sciopero legale. Adesso, ecco, spieghi come si indice lo sciopero da voi. Benissimo, allora noi abbiamo due cose che bisogna capire. Il sistema tedesco, una cosa è il sindacato che rivendica più diritti, più salari e compagnia per i colleghi e colleghi, per i loro iscritti. Un'altra cosa è la commissione interna, che è una istituzione legale per legge, che anche senza iscritti a sindacato i dipendenti si possono votare una commissione interna che salvaguarda i loro diritti. Questa è la prima cosa fondamentale, che penso che varia dall'Italia. Uno sciopero generale non è possibile indirlo senza un referendum. Allora, in prima linea la commissione tariffale inoltre una richiesta, per esempio come adesso il 6% a partire dal 1 di febbraio. Se nelle trattative a tavolino non si riesce ad arrivare a una conclusione, organizziamo delle forme di informazione nell'ambito dell'azienda, dove si ferma naturalmente tutta l'azienda. L'azienda dice che queste sono delle forme di protesta, però noi facciamo per tenere i colleghi informati e nel momento opportuno anche fare forza sulle trattative. Se le trattative arrivano a un punto che a tavolino non si arriva a una conclusione, la commissione tariffale, che è composta da circa 100 rappresentanti degli operai, decide: ora a tavolino non riusciamo più a concludere niente, dobbiamo indire uno sciopero. Il sindacato deve fare un referendum, inoltrare un referendum da tutti i suoi iscritti. Qui alla Volkswagen siamo il 96%. E ottenere quanta percentuale di voti? Il 75%. Se non si ottiene il 75%, non si può indire uno sciopero organizzato, dove il sindacato naturalmente deve pagare anche, non il 100%, però deve pagare anche il mancato guadagno, perché sennò a fine mese, noi possiamo scioperare 2 o 3 mesi, a fine mese come non ho niente da mangiare in poche parole. Allora, io ringrazio Franco Garippo, perché siccome sento incessantemente chiedere salari alla tedesca, bisogna, ecco, gestione alla tedesca, la Mitmachtstimmung, per cui ci sono i rappresentanti dei sindacali nei consigli di sorveglianza delle aziende, forse è bene ricordare che i salari alla tedesca molto più elevati di quelli italiani, e cioè consentiti dai margini delle imprese del sistema tedesco, del Mittelstand tedesco, è la Mitbestimmung che storicamente contraddistingue la compartecipazione nei consigli di sorveglianza e sistema dual delle aziende tedesche, si fanno grazie a queste regole che ci ha ricordato Franco Garippo, regole che in Italia avrebbero bollate, penso, di Terzo Reich, regole per le quali nell'intera storia della Volkswagen, perché Garippo vi ha parlato degli ultimi 27 anni senza uno sciopero, nell'intera storia della Volkswagen dal secondo conflitto a oggi ci sono stati solo 2 scioperi generali. Sapete cosa vuol dire? 2 in 66 anni. E per fare sciopero bisogna avere il 75% dei voti, andarsi a contare prima. Sono regole che in Italia avrebbero considerate come quelle del sistema tedesco, che adesso tutti invocano solo per avere le paghe alla tedesca. Questo è il dilemma. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo da Di Mauro da Gianola. Una raffica di insulti negli sms che mi dicono che è troppo comodo parlare delle regole, bisogna avere le paghe alla tedesca, le paghe alla tedesca, le paghe alla tedesca sono figli di quelle regole, figli miei. Quindi su questo mi dispiace che tutti quanti dicano: ti è andata male, porco al servizio di Confindustria, porco di qua e porco di là. No, no, per avere i salari alla tedesca bisogna avere la produttività alla tedesca, avere capacità quindi di sapere commisurare nei momenti di difficoltà la responsabilità nelle aziende per questo. Poi c'è un'altra strada, quella che dice che non è affatto compito del sindacato fare questo, è una strada che noi abbiamo percorso negli anni e io la rispetto legittimamente, perché è un grandissimo pezzo di storia italiana. La storia dei sindacati è una storia fatta con la politica in testa nel nostro paese. L'unità e l'affrazionamento hanno sempre ripercorso questo tipo di sentieri, molto diverso da quello di un paese come la Germania. Detto questo, alla fine ci si può dividere e contare per immaginazioni e ascrizioni politiche e tentativi di far pesare queste scelte su tutta la sinistra, se si sta a sinistra, sul centro, se si guarda al centro, quanto si vuole, ma nel frattempo il mondo va avanti e poi bisogna capire se tutto questo lo si fa pagare ai lavoratori italiani, che guadagneranno ancora di meno rispetto a quello che guadagnano, e con pezzi interi di manifattura che se ne vanno. Questo è il mio punto di vista, ma è un punto di vista che forse è sbagliato. Chiedo a Di Mauro cosa si aspetta in concreto davvero nel voto. Non le chiedo previsioni, le chiedo nel caso di una vittoria del sì anche col 51%, 55%, 58%, a quel punto è preoccupato di chi dice comunque deve saltare e salterà, oppure no? Franco Garippo, che ho conosciuto 15 anni fa a Wolfsburg, in una interessantissima visita alla Volkswagen, ne aggiungo un'altra di cosa. Io in 5 giorni sono stato a Wolfsburg, ho visto 5 macchine non di marchio Volkswagen comprate dagli abitanti di Wolfsburg. Vengo a Torino, e lei ci viene spesso perché è torinese, ha ragione, e scopre delle grandi differenze tra la cultura italiana e la cultura tedesca. Volevo tornare prima solo un attimo, perché non le sembra vero, Giannino, ma mi sembra che l'analisi che ha fatto sia Gianola che lei condivida mi sembra un po' datata sull'indotto. In realtà quei dati che dava Gianola sono veri, ma sono veri sulle fabbriche sindacalizzate dell'indotto. che oramai, ahimè, sono sempre minori, perché in Italia la piccola e media industria si sta diffondendo una cultura no union, di fatto, che cambia radicalmente quei dati. E allora noi dobbiamo cominciare a pensare ai diritti di chi non ha diritti, e da un lato, e dall'altro la facilità con cui un'azienda automobilistica si può approvvigionare via internet e ricostruire un indotto via internet in maniera dal punto di vista qualitativo assolutamente funzionale, molto più semplicemente che nel passato. Quindi anche quell'analisi lì bisognerebbe riaggiornarla. Venendo alla domanda e rispondendo al simpatico ascoltatore di Bergamo, dico che anche a Mirafiori i lavoratori vogliono lavorare, non solo in Val Brembana, lo dimostreranno col voto, perché i lavoratori di Mirafiori hanno sempre seriamente difeso il loro stabilimento nel corso di questi anni. L'ultima volta che l'abbiamo salvato è stato nel 2004-2005 con una lotta unitaria per difendere lo stabilimento di Mirafiori e per evitare che venisse distrutta un'esperienza importantissima nel settore manifatturiero italiano. Spero che prevalga il sì e spero che prevalga la ragionevolezza, perché l'alternativa sarà un disastro non solo per Mirafiori, la vittoria del no sarà un disastro non solo per Mirafiori ma per il sistema manifatturiero italiano. La vittoria del sì invece ci consegna già il contratto dell'auto bello e fatto, perché al di là di tutti i dibattiti, avere il contratto collettivo di Pomigliano e di Mirafiori mi sembra che a quel punto abbiamo risolto un altro problema al sistema di relazioni sindacali italiani, un po' troppo ossificato, nel senso che a quel punto il contratto dell'auto già è pronto e chi vorrà aderire ci potrà aderire. Gianola, mettiamola da un altro punto, ci aggiungo un elemento oltre a tutto quello che vorrei dire su quello che fino a questo momento abbiamo aggiunto, ma nel rapporto con le altre confederazioni sindacali, certo oramai le distanze diventano incolmabili, sono proprio due visioni diverse del proprio ruolo, di come si sta di fronte alle imprese, di come si sta di fronte alla politica, credo meno, in realtà quello è l'aspetto meno differente, però sul ruolo proprio di che cos'è il sindacato rispetto alla controparte, da questa vicenda da Pomigliano in avanti, dagli assetti confederali interconfederali, dell'intesa interconfederale dell'inizio del 2009 in avanti, questi due anni sono stati anni terribili, quindi è una scommessa in cui ci si gioca intere classi dirigenti, per la Susanna Camusso che è appena arrivata un po' pesante per questa storia, oppure no? Ma senti, no, volevo fare un'osservazione sul tuo primo dibattito. Tutto quello che vuoi. Diciamo sulla cogestione tedesca e sui salari italiani e tedeschi. Beh, qui se dobbiamo fare una trasmissione su questo tema bisogna che però mettiamo i puntini sulle i, perché altrimenti si dice che se i lavoratori italiani lavorano poco e per questo non portano a casa i salari tedeschi. Ma in Germania ci sono 40 anni di cogestione, c'è una legge dello Stato. Cioè, ma no, ma è verissimo, verissimo. Infatti diciamo, io l'ho ricordata apposta. Scusami se mi permetto, visto che siamo in casa della Confindustria, se tu senti i tuoi amici industriali sono i primi a rifiutare il modello tedesco. Il dottor Bombassei in un'intervista ha detto esplicitamente che lui i sindacati non li vuole nei consigli di amministrazione, perché sono i padroni che ci mettono i soldini e i sindacati invece vogliono solo salari più alti. Quindi questa, la resistenza culturale a un modello diverso, poi la cogestione, quello che volete voi, viene soprattutto dal mondo delle imprese, non solo del sindacato. No, no, ma guarda, sono il primo, sono il primo a dirlo da questo microfono. Le osservazioni rimangono un po' tronche. Sono il primo a dirlo insieme a te a questo microfono. Però sembra che i sindacati siano un gruppo di restauratori e conservatori, mentre le imprese sono un gruppo di modernizzatori. Sono il primo a dirlo insieme a te a questo microfono. Guarda, così. Io devo dirti una cosa, da tempo vedo che c'è una discrasia crescente tra sindacati confederali in Italia, in cui oggi questa divergenza emerge in modo evidente sul caso Fiat, ma anche su altri comportamenti, direi, ed è una fine di un sindacalismo confederale che ha fatto, secondo me, del bene a questo paese. C'è un sindacalismo che non si occupava esclusivamente della contrattazione aziendale del salario operaio, ma si faceva carico di interessi più ampi, più generali, basati sulla solidarietà e l'aiuto ai ceti sociali più bassi, più deboli. Questa forma di sindacalismo, questa politica, sta divergendo. C'è un segnale molto forte ormai da questi due o tre anni di governo del centrodestra con la divisione dei sindacati, che vanno in posizioni su direzioni completamente diverse. Io spero, poi non ne sono assolutamente sicuro, che ci sia un futuro forte ampio, per il sindacalismo confederale che abbiamo conosciuto, perché è un valore costitutivo di questo paese. Se torniamo esclusivamente, perché l'abbiamo già vissuto anche noi, a un sindacalismo aziendale, dove ci si limita esclusivamente a negoziare la paga del proprio dipendente, questo paese sarà democraticamente più povero. Questa è la mia idea. Bene, sentiamo ancora un ultimo ascoltatore, Luca da Novara, ed è tutto casuale perché erano in tanti a telefonare. Luca da Novara, come la pensa? Sì, buongiorno a lei, signor Giannino. Niente, io la penso comunque come il suo ospite, e anche come il suo ospite, una nota di attenzione per quell'ospite che, della Volkswagen. Purtroppo in Italia o si cambia, nel senso che non bisogna più tenere da parte dei sindacati, in questo caso la FIOM, tenere le mani legate le aziende, le sue scelte aziendali e i suoi stessi iscritti con ideologie vecchie di 20 anni fa, di 30 anni fa. Bisogna abbattere queste ideologie, perché non è possibile che nel 2011 si tenga ancora conto di scelte aziendali legate a queste ideologie qua. È ora di finirla. Anni fa c'era il G8, adesso c'è il G20. Per competere bisogna correre più degli altri, o si rimane indietro. Basta, è ora di finirla questa cosa qua. Va bene, io adesso penso che invece che è ora di finirla, perché guarda Luca, stiamo attenti, i toni sono una delle componenti fondamentali. No, il confronto nelle aziende, nei sindacati di lunga storia italiana, noi abbiamo una storia complicata, fatta di frazionamenti, eccetera, eccetera, è una storia nella quale bisogna tentare di avere mai toni ultimativi. Io mi auguro che anche queste ultime ore a Mirafiori, a me sta molto a cuore, io sono cresciuto a Mirafiori, devo ammetterlo, mi sta molto a cuore l'idea che ci resti la fabbrica trasformata, diversa, è molto diversa e lontana dalla Mirafiori dei primissimi anni 60 in cui sono cresciuto io. Cioè, oggi erano multipli i lavoratori, si lavorava in maniera diversa per volumi diversi. Quello che mi auguro io è che ci sia serenità fino alla fine, senza nessuna violenza. Sappiamo che in ballo c'è Mirafiori, poi in ballo c'è la manifattura dell'auto italiana e c'è 10-100.000 Pomigliano, come diceva Rinaldo, dicendo Gianola, dicendo è un rischio. Per me è una strada da battere, dal basso, un sindacato diverso, capace di parlare diversamente con le aziende per recuperare produttività, costo del lavoro, difendere la manifattura in Italia, che è il bene, quella che ci fa esportare e fa crescere di più il 70% della crescita breve, e soprattutto capace di portare nelle tasche dei lavoratori, come a Pomigliano, come a Mirafiori, 3.700 euro lordi in più. Io non ci sputerei per niente sopra. Quindi vedremo come andrà a finire. Linea a Giornale Radio, appuntamento a domani.